La storia e la memoria di Dino Pesole. Ben 1500 capolavori dei grandi maestri della pittura, da Picasso a Matisse, da Chagall a Renoir. Un vero e proprio tesoro scoperto nei giorni scorsi in un piccolo appartamento di Monaco di Baviera, in cui vive un misterioso ottantenne, Cornelius Gurlin, figlio dello storico e mercante d'arte tedesco Hildebrand Gurlitt, morto nel 1956. Tutte opere strappate negli anni tragici del nazismo a ebrei in fuga dalle persecuzioni e dai lager. Un tesoro che, secondo stime approssimative, può valere fino a 1 miliardo di euro. Il padre di Cornelius, Hildebrand, era uno studioso molto stimato dal Terzo Reich, in grado di recuperare capolavori di quell'arte che Hitler e Goebbels consideravano degenerata. Una storia che richiama altre drammatiche vicende di razzie di opere d'arte compiute dai nazisti. Un programma di vera e propria spoliazione messo in atto dal Terzo Reich anche nel nostro paese dopo l'8 settembre del 43, cui cercarono di opporsi diversi sovrintendenti e anonimi funzionari del Ministero dell'Educazione Nazionale. Tra questi spicca un nome di primo piano, quello di Rodolfo Siviero. Nato a Guardistallo nella Maremma Pisana della Val di Cecina, il 24 dicembre del 1911, è morto a Firenze il 26 ottobre del 1983. Francesca Bottari, nel suo libro Rodolfo Siviero, avventure e recuperi del più grande agente segreto dell'arte, pubblicato da Castelvecchi, ne ripercorre la storia a 30 anni dalla scomparsa. Ne parliamo questa sera proprio con l'autrice. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie di avermi invitata. Rodolfo Siviero è stato il più abile cacciatore di beni culturali trafugati dai nazisti in Italia tra il 1938 e il 1945. In tempo di guerra, a Firenze ha organizzato e diretto un nucleo clandestino che, in collaborazione con gli alleati e i partigiani, svolgeva una rischiosa attività spionistica, grazie alla quale, subito dopo la liberazione, buona parte del patrimonio predato ha fatto ritorno nel nostro paese. La parte mancante, una quantità enorme di sculture, dipinti, manufatti, oggetti vari di alto valore artistico e storico, e interi archivi, biblioteche, collezioni di documenti antichi, giaceva ancora dopo la guerra nei nascondigli o nelle raccolte private delle personalità eminenti del Reich. E così per un trentennio Siviero, divenuto funzionario dello Stato italiano con un incarico speciale, ha recuperato oltre 3.000 opere d'arte. Francesca Bottari, nell'introduzione al libro, scrive che la lista delle opere da ritrovare al momento della morte di Siviero, redatta da lui stesso, si aggira attorno alle 2.500 unità. E tuttavia, nonostante questa sua meritoria opera, la figura di Siviero appare controversa, forse anche per il suo passato fascista. Per certi suoi trascorsi ambigui, per i metodi da agente segreto e i colpi messi a segno in modo spettacolare, anche in tempo di pace, Siviero è stato fatto oggetto di ammirazione come di diffidenza, perplessità e anche di ostilità. La sua è una figura affascinante e controversa, ma il risultato del suo lavoro è un dato di fatto. Senza l'azione ostinata e spregiudicata di questo cittadino, oggi l'Italia sarebbe priva di un pezzo rilevante di storia. Siviero ha raccontato ciò che pochissimi altri potevano: di convogli nazisti in partenza per il nord, zeppi di quadri e statue sottratti ai musei, la documentazione che con metodica perizia ha raccolto in quegli anni, unita a quella raccolta dagli alleati, ha fatto sì che della gran parte delle opere trafugate non fossero cancellate le tracce. Ecco, allora Francesca Bottari, l'opera di questo funzionario, però che poi era anche una specie di 007 dell'arte, come lei lo definisce nel libro, non molto conosciuta, forse conosciuta agli addetti ai lavori ma non al grande pubblico, in qualche misura è oggetto di critiche, come abbiamo ascoltato adesso, ma solo per il passato fascista di Siviero o c'è dell'altro? Cioè, ormai possiamo usare il passato prossimo, c'è stato dell'altro. Adesso la sua figura è merita un risarcimento complessivo e anche un, uno sguardo obiettivo e così che anche la lontananza ci consente di fare. E comunque sì, insomma, c'era dell'altro. In buona sostanza mi pare che il centro del problema fosse stato che i suoi passati, i suoi trascorsi da agente segreto e da spia fascista, insomma, gli avevano, lui era stato per 6 mesi con una missione segreta che penso che non riusciremo più a ricostruire col senno del poi, è stato in missione in Germania. E lì naturalmente si è fatto le ossa, e questo è il punto, cioè i suoi metodi così proprio da 007, da investigatore, da agente segreto, lui li ha mantenuti, li ha custoditi come prassi operativa per tutta la vita, e questo non è andato giù a molti, quasi a tutti in realtà. Intendo dire che, come lei diceva, lui è stato poi un alto funzionario dello Stato con incarichi speciali, e questi incarichi venivano rinnovati ogni 2 anni. Quindi non era nei quadri delle istituzioni, ogni volta al nuovo governo doveva chiedere l'autorizzazione ad operare, questo naturalmente non deve averlo aiutato ad avere un buon rapporto con le istituzioni italiane. E comunque i suoi metodi erano metodi di indagine, avendo a che fare con furfanti sia del passato che del presente, il suo presente, perché poi le opere d'arte sono state trafugate, sono tuttora trafugate continuamente. E quindi i suoi metodi di indagine erano quelli di una persona che sapeva il fatto suo, che sapeva trattare con i mediatori, che detestava questa idea che delle opere si pagavano i riscatti, e quindi i suoi metodi erano diversi. Insomma, non era in linea in nessun modo con nessun modus operandi delle istituzioni legate alla tutela del patrimonio culturale. Quel che conta sono i risultati, e dunque dalla sua dettagliata ricostruzione dell'opera di Siviero si evince che appunto lui recuperò oltre 3.000 opere d'arte, che non è proprio uno scherzo. Non è uno scherzo, tra l'altro, insomma, quando noi diciamo che Rodolfo Siviero ha recuperato circa 3 migliaia di opere d'arte, dobbiamo tener conto che le prime centinaia di opere recuperate sono state le opere recuperate dei grandi musei italiani. Insomma, lui ha collaborato al recupero dei musei del patrimonio custodito nei più importanti musei d'Italia, quindi insomma, è stata un'opera meritoria che è partita dai grandi rientri che lui personalmente ha trattato con incarico diplomatico a partire dal 48, ma parliamo appunto del Discobolo di Mirone, della Danae di Tiziano, dei grandi capolavori dei grandi musei italiani, e poi ha perseguito con questo metodo capillare che lei prima citava, di documentazione ossessiva, che aveva messo insieme, lui ha dedicato la vita a questo. E quindi era anche la memoria storica di tutte le sparizioni, e lo sarebbe tuttora. Spesso quando mi trovo a parlare con i collezionisti, con gli esperti d'arte di questi argomenti, ci si chiede sempre se ci fosse Siviero questo saprebbe dov'è. E che fine hanno fatto le altre 2500 opere che Siviero stesso indicò nella lista poco prima di morire? Guardi, più che lista, lui c'è proprio una sorta di archiviazione, di catalogazione, con la documentazione per ciascuna opera di quelle che lui ha conteggiato come ancora perdute. E sa, a questa domanda nessuno può rispondere. Ogni tanto, noi naturalmente, adesso faccio un inciso, noi speriamo che tra le opere, a questo nucleo così cospicuo di opere di cui si parla tanto adesso trovate a Monaco, e a un certo momento si possa, nel momento in cui tutti i documenti saranno resi palesi, saranno resi espliciti, si possa confrontare la documentazione, e che tra quelle ci sia qualcuno dei nostri, cioè qualcuno di quelli che Siviero aveva catalogato. Appare abbastanza difficile al momento, però non è assolutamente escluso. Questa documentazione è custodita tuttora nell'ufficio di Siviero Palazzo Venezia, che è di dipendenza del Ministero degli Esteri, custodito in un archivio che è l'archivio Siviero, e quindi insomma aspettiamo nel momento in cui si potranno confrontare questi dati, e auspichiamo che qualcosa possa rientrare in Italia, per esempio. Bene, bene, la ringraziamo molto allora Francesca Bottari, e complimenti per questo libro, Rodolfo Siviero, Avventure e recuperi del più grande agente segreto dell'arte. Buona serata. Grazie mille, presto. Grazie.